incontro in provincia, quindi non credo che non ci hanno dato nessuna disposizione, perciò è tutto normale. Ma quale prove, ti ho sentito ieri, sembri un camionista, sì, perché mi meraviglio di te, mi meraviglio. come sentiti Mario, Claudio, non so se è stato l'ascolto, Mario e Salvatore. Tu mi è sembrato di aver sentito Luca comunque adesso sotto. Ci sono anche io. Ciao Natalia, mi hai sentito? Buonasera, sono rientrato adesso e stavo cenando. Vedi un po' tu, perché se allora se era stato 12 volt l'avrei fatto funzionare l'alimentatore, ma se almeno di 9 volte non accende. sentiamo e ci vediamo. Arrivederci, mi dice quello che vuoi. Niente. stessa? Oh, calma. L'ho fregato. Io ero. Vai, era mia moglie, si fa la cosa tutti, dai. Adesso lo faccio guardare per la voce. Ero io, sì. Ah, che troppo gentile. Non fai pesce, fai bocconi, fai materia di quella grande grana. di tutto. Ma adesso io faccio per questione di collezione, io ti ho fatto gli schiusi in India. Ah, quindi adesso lascia tutto, cosa c'è un piloto che non mi fissa, non mi dici la voce, ti pusti a cercare. Anche io stavo cercando quello. Cosa stavo dicendo? Comunque è una questione anche di collezione, di cose, a me ci sono delle canzoni che mi piacevano particolarmente quando ero ragazzo, con dei rigori, delle cose, quindi mi piace sentire. Perché se sono prima la droga nel posto le robe di sto come sono con un baraccino adesso. E stavo dicendo che praticamente niente. Li cercavo, andavo da una solo musica, che ne aveva anche recenti, aveva di quei dischi da jukebox, aveva tutta quella roba lì, ne compravo un bel meglio. E quello lì è che ha pascato lo qua, l'ho fatto dire. Aspetta un attimo, saranno tutti. Ho sentito che vanno dalla soglia di giù. Niente. Uno è quello che sto vicino io, e l'altro che è quello che sta vicino tu e che sta batterà. Probabilmente. Ma sta per tutto, quello che c'era anche ieri. Penso di sì, perché bello vaccinare la forza, ma sono anche ma qua. Se non riesco a trovare, lui sa dove sto. No, no, no, perché adesso ho fatto un giro dall'1 al 40, non sento niente io. Però se non sento niente, si sente, sì, però no, non è il segnale, probabilmente sta su qualche altra frequenza. Non lo so. No, non penso, comunque mi stupano, ancora a farvi tutti gli affetti. Ma anche con l'antenna grande, cioè il segnale non è cambiato con l'antenna grande, già. No, sì, ma io anche che loro mi arrivano sparati qua. Cioè, solo forse sono uno mi arriva, boh, magari. Tra l'altro, c'è un problema di streghe, quello che sono vicino arriva a Santiago 9, però poi riuscite a superarlo. Ah, ma lo so quello che c'è per voi. Non è che non si sa, prova a fare passaggi. 1, 2, 3, prova 30, 40, 50, perché se mi stavi facendo spaventare io. Esatto, non mi sono detto perché lo dico, non è che mi fa sentire quello di qua. Quanto arrivo con questa? 9, 5. Ma il mio segnale è un differente, non si? Sì, se è tuo. No, perché volevo fare il confronto con l'antenna piccolina che non me l'hai mai data. Adesso rimetto la piccolina e mi dici come arrivo con le streghe in aperto. Un attimino già. Intanto non ritrovi, sono nella soglia di 40 metri. E allora per vedere se ritrova. Cosa ne so io? E K. K di Roma però. Sul 40, sull'80, dove vuoi? Ah, io problemi non avevo, 40. Prendermi l'acci. Ma tante altre. Franco, la consegna. Ciao. Sono qua di auto. Ah, Caratrici. Cappagatto. Vece. E va. Sono là di dentro. E Caratrici, quelli della TP dentro sono. Scappa. E vabbè, questo è fatto. Quindi deve essere verbale, guardate la busta, tu prendi e carichi la macchina e tra l'altro la busta. Guardate la busta. Non è quello. vicino al frigo. Affanculo. Cazzo. Affanculo. Boia. Tutto qua. Senta se sbaglio. Sì. Adesso vediamo. Perché non si può, Senta, lavorare non si può. Roberto, non ci sei Roberto? Ci sono, non so come ci stava ascoltando Luca. Sul 20. Pensi sul 10 e sul 20. Deve essere battimento di qualcuno che si trasla sul 20. Scappa. Non so. Oh Luca. Sì, arrivi Roberto. Appena arrivato in quella gretta, Mario, Gianni, Natalino, c'erano fino a poco fa, bus, si scomparsi. Bus, stanno lì che stanno ascoltando. Non lo so, ma siamo adesso, sono altri canali. Ah, sono in altri canali? Franco, c'è Claudio e Franco e Claudio, vabbè, no, ma dico Natalino e Cosmo, e Mario e Gianni, non credo. Capita Roberto. No, cosa è successo? Certo, prepati Antonello, quando arrivati lui. Ma non hai compreso che è stato giusto, non me l'ha potuta. Comunque io con l'antenna piccolina mi ricordo molto meglio quando ci sono questi sblaster, non li sento. Quando sono l'antenna grande andava. Però diciamo a voi vi tiro fuori tutti, anche a Cosmo, Antonello tiro fuori. Strano che uno riesce a sentirmi. Capace più di gestione. Ai più colpi, quando c'è un'antenna meno ricezione e i colpi sono molti di meno, molto di meno. Al discorso che stanno usando potenze esagerate, ma che ha bisogno di una io, se in città e usi potenze del genere, che cosa ne hai? Bubu, mi manda laterale duro, figurati. C'è la pagania di Aruzzi, non me la pago io, no? Sì, ma non fanno parlare gli altri, non li fanno parlare male, che sai, che cosa ne hai? Ma non se ne accorgono, non lo fai da posta, così sono tutti. Ah, ma non me la scusa. Questo è il problema. Ah, gli agenti sicuramente sono andati, soprattutto Gianni perché si sono russi, perché dice tutti i corsi stavano prendendo. Capisco, io Franco ce l'ho vicino, molto. Chi è più vicino, a te o a Gianni? Sono a Gianni. Ah, Gianni è più vicino, siamo forse più vicino a te. Guarda, all'incirca siamo lì, è in mezzo, tra me e Gianni. Dimmi una cosa, invece Franco Delta 1 dov'è? Lui dalle parti di Usini. Le parti di Usini? Ma lui modula anche dal laboratorio qualche volta? No. Sicuro? No, sicurissimo. Ma lui c'è la casa o la campagna dalle parti di Usini? C'è la vita proprio lì? Questo c'è la campagna, boh. Ma che cosa? Roberto Meccanico è dalle parti di Usini, con la strada lì, non si pare, no? Roberto è proprio a Usini. Fantastico. Oppure non lo senti? Io lo ascolto, ma strano che lui non mi riesce a ascoltare, non sento bene, come al solito io. Non è fortissimo di radio, ma non sento. E lui è ancora a correre, ma è altro, non è? Sopra un nero. Via. E adesso me lo vuol dire, ma come è andato a portarti con l'antenna lì, punti? Adesso ci sono belle giornate. Ma cosa si è messa? Questo sono gli anni romani, no? Sabato, domenica, scene trasmorti. Non posso immaginare. Non posso immaginare. Comunque sia. Io grazie alla guerra non ci vado, Io gratis alla guerra non ci vado. No, vabbè. Tipo qua 30 euro la vita non quanto, ma come muovo. Meglio ci venuta nulla, non quando. No vabbè, ma se la faccio tanto non te la posso piazzare, non ho un problema. Ah, scusa, devo piazzare l'antenna, ma non ha in terra di sotto, giù, in terra. Devo te la pronta, la porto su, faccio dei buchi, che il cavo, poi faccio io. Scendeva qualcuno a 35, vai 35, questo è buono, è ben giusto. No. Adesso, ma non fare, se mi voglio 50 euro, siamo come in buco. Va, scusa quanta gente che posso andare. Ma, se non fa una giornata, no. Una, due giornate, no. 1050. Se me lo fa, mi fa lavorare per una settimana, posso andare pure per 45. Non so bene. Gaffa, non so, lo so. Dimmi, Robert. No, stavo ascoltando. Ma magari perché non sono sicuro se sto sendo 40 alla grande. Come arrivo? Di fare il tasto? Oh, ascolta, Antone. Passa la grande pure. Vedi Luca, come mai non è andato da Fabio, quello stavo aspettando. A proposito, Antone, sta aspettando Fabio. Stai già una la grande, Roberto. Dimmi Luca. Stai già una la grande. Non sono sicuro, Antone, posso saltare a avere un'altra stanza. Tu non te ne accorgi se sono una grande, sono con portatile adesso. E il segnale com'è? Quello solito del portatile o che cosa? Ti portiamo a Franco dietro. Ma se mi riesci l'antenna grande è quella, mi sembra, non sono sicuro, però a vedere un po'. Perché non te lo segni con un pezzo di natto isolante, lo scrivi, o cacca con matta, antenna grande, antenna piccola. Sì, già sono segnato, solo perché sono dall'altra stanza, e tanto lo sono di tutti, dico, dai. Dappa. Tu dici, l'antenna a Roberto nel manco, questo è. Faccio quando magari lui siamo, sì. Certo, ma è una parte di tutto. E ha problemi di massa, cioè qual è il valore per 10? Ascolta a me, così. Dimmi, sono con la grande, dai, c'è quella. Ti è entrato qualcuno? Maria Luisa ha fatto... una pompa. E lui ha! Ma non ha senso. Pensavo però, Non arrivi ancora a una antenna grande, bruh. Cosa non si importa? Il problema è a lui, perché gli altri mi ascoltavano tutti quanti. Probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Tu sei Maria Luisa? Cosa, Antone? Che affa. Casino, non già sta dicendo roba. Se c'era Maria Luisa adesso. No, capito, mi hai sentito, stava Maria Luisa. Ascolta meglio di Antone, lo chiudo. Sai perché non ti ascolta Antonello, Maria Luisa? Io stavo facendo con un pezzo di stile elettrico, allora. Buonasera. Adio. Buonasera. Come ci sei uscito? Andare. Allora, già vedi Mario, ma che tu buf. Guarda se sono fuso se ne è andato. No, io è perché me lo devo prendere. Sono andato a mangiare, qua che avevate mangiato. Poi, niente, prima sono andato a mangiare. Viani, no, vi stavo chiamando perché avevo lasciato 2 minuti sto arrivando, sto buttando non avrebbe visto nessuno, la salina era Gianni. Però non ti sente buon pure Mario. Ma è cappa. Cappa poco. Buonasera, ma non so che frequenzia. Frequenzia la sonda. Tutto risolto? L'ho fatto in due. Mario, ecco già che fine ha fatto. Cosa ne so? Io non mi ricordo la... Da Franco era corso e muove la mezza incavolato. Gaffa. Che andare. Cosa stavo dicendo prima, a Pompugno? Luca, figli ad Antonello a Pompugno, se può entrare dove sono loro e dirle o ascoltarsi o abbassare. Non è possibile che vengono che si distraggiti in alto. E senti con lui? State parlando in due. No, non c'entro roba, no. Non me la putti nuta, sei pure entrato, ma non c'entro. Ma perché tu puoi entrarci? Vabbè. Non sapevo, no, dillo a Pompugno se vuole entrare lui a dirgli abbassare almeno. Aspetta, ci metti in cosa, la faccio un casino indietro, aspetta. Mario, tu puoi entrarci? E come mi hanno attraverso, sono andati, No, io non c'entro, non me la frega niente. Allora, non me la frega niente. Stanno pompando, è tutto pompare. Pensa che io quando sono andato a pranzare ho lasciato il baracchino sul 40. E li ho seguiti a Franco California, lo sentivo chiaro, fino al 34 mi sembra. Figurati, io addirittura Luca era su 10 e lo sentivo su 20 a Luca. Figurati cosa stanno trattando. Ecco, appagata, e cosa dovremmo fare? Guardate come c'è il dolore, che lasciano bene. Vabbè, ma li portate a loro fare la scatola, è facile come lasciare due, però lascia parlare agli altri. Ma non è così. più serio, ma il più serio che c'è in confronto a quelle cose lì non è niente, capito? Perché un po' di colpi li piglierei sempre. Adesso non li sto sentendo come prima, ma con l'altro grande li sentivo. Ma io dico, Mario, cioè, Gianni a me non mi ascoltava per colpa loro. Lo so, e cosa vuoi che faccia? Cioè, uno deve entrare e deve dissociare, non ho capito. Detto quello, però un po' di educazione non fa male. Se le dici così si offendono. Perché ti dicono, e tu che sei per insegnarmi l'educazione a me? Vabbè, allora io non posso andare su di voi, cosa vuoi che dica? Se si offendono faccio per loro. Ma purtroppo qui nella frequenza si ragiona un pochettino così, Che dice, io sono in quel canale lì che sto parlando. Non ho mancato di rispetto a nessuno perché loro non se ne rendono conto. Cosa vuoi dire? Che conti che loro si facciano quello che vogliono, cosa vuoi che dica? Vediamo se Gianni c'è. Gianni, sì, sì. Aspetta, non più russi, sì, sì, ma c'è un corpo, un cambio. Sì, ma sono Luca, Antonello che non mi sente, Maria Luisa, ci sei ancora? Aspetta, sì. Sono sparito, là. Luca, ci sei ancora? Dimmi tutto, Caluccia, bumbu. E va, è svelato là. Gappa, gappa. Cosa vuoi che ci dica, bumbu? E tua sorella? Gappa, gappa, fai pure, fai. Buonasera signor Gianni. Sì, scusa che mi chiamavo, ma era sì carissimo, ero io che ti chiamavo perché Roberto credeva che ci sia fare che avevi chiuso per via di queste blatter di come ti ho risposto io, perché purtroppo già io ti ho risposto così perché gli sblatter lo sappiamo come sono, no? Se vai a dirgli cosa, poi magari ti dicono pure cosa, che loro sono in quel canale, che non stanno disturbando nessuno, ti pili trappola e via dicendo. E niente, non vorrei che ti fossi offeso per quello. No, io sono andato là e sto raccontando. Gappa. No, la verità io non so cosa dire, infatti Roberto sta per tenere un pochettino di educazione, non stanno mancando di rispetto a nessuno, loro sono in quel canale lì, stanno parlando e basta, non è che stanno mancando di rispetto a qualcuno, no. Purtroppo gli sblacchi sono come di lui, chi ce li ha se li tiene. Quando sono andato a caricare ho lasciato un baracchino sul 40 e dal 40 fino al 34 sentivo franco chiaro chiaro. Perché si stava a mandare la lanterna in parte. E bisogna vedere pure dove sono in mezzo laterale. Magari sono in qualche canale che li piglia tutti. Perché quando sei nel 20 in braccio di tutti i canali perché si è trombata. Roberto è da qui, non so che cosa stia facendo. Roberto, qual è l'atto? No, la si sono. Ah, Roberto, caro caro. Vedi che ti tiene il buon fuoco anche di lui. Mi fa un po' di scusa, Falcone è grosso. Sì, io lo stavo mandando la chiusura, lo faccio cercare. Io non ho fatto scherzi del genere, mi dici che ci rimango male, veramente. Sì, non lo so se l'ha fatto, non so quanto resta per aspettando mia figlia, per provare che su che però la lui. Davvero? Sì, ero qui, gli ha detto che aveva nei costolini, era un berco, eccetera, eccetera, lui è andato, mi ha dato su di mangiare, poi mi si è abbracciato di lui, tranquillo, e dopo non era quello. Ecco. Finiti di sbattere? Sono finiti perché ho il canale loro, quindi sono finiti per questo. Le hai detto qualcosa? Sei entrato a avvisarli? No, no, ragazzi, dovevo toccare il discorso di pesca, stavano facendo, non mi interessava, ho ascoltato. Cappa. sui giri e non lo sentite. Non batterlo perché tu sei stato promesso. Per il rumore? Forse la giacca. Allora ti hai fatto un po' la benecchiella già. Ehi, ehi. Ma perciò sono rilassato con le scosse. Gianni Grombi e Gianni Mani. Finito? È finito, Natalino? Luca Fugioni, 26, 18, 26. Altro è AM, per il Bluetooth di AM che c'ha. Che insiste. Avanti la manda laterale. Ma che c'è Maria? Scusa, lascia una bella di bicchio. Come era in 40? Sono dei cavalli di scopo, non sono dei cavalli normali. Sono anche abbastanza una ventina di canali di tanto da questo. Sono dei canali di questo. Sono la 39 mandati. Mandati. Facciamo solo questi canali. Vabbè. Mi mano su questi canali. Se fai un giro di conto su questi canali. Ma stanno del stesso pochino. Io per esempio con questo, lui dice, non li sto sentendo qua. E quando con l'inserito non mi piace, tutti gli accarati. E poi non li sento. Però tu sei perché pochino mi è distratto, non mi sento gli accarati. Ma già non si distratto la macchina. A te le mattelle. Ma tu Flavio, ma te si distratto. Adesso arriva la pittura, la pittura. Ma io non lo sento più adesso. Non so. Ma ci sono le rose lì. Sono alto con la parte dietro. Ma se no non ha senso. Quindi vabbè. Non c'è problema. Non c'è problema. Cava cava. Mi sono messo la macchina, poi sono passato da un amico, salutato, dopo la sua amica salutato, e poi sono andato un compleanno, non so se è il compleanno. Ecco, ha pagato, allora che ti sei svagato bene. Insomma, come stare in casa, mi piace. Neanche a me, ma purtroppo quando esce già tardi una cosa, l'altra, niente. Ecco, io per me stasera non sai come l'avrei passato, non sarei tornato a mangiare a pranzo, mi avrei fatto due panini e mi sarei andato a pescare, e l'avrei passato tutta la serata. Aspetta che se va a tanto vero, non è tanto vero? Ora quanti trovo? Sì, lì do. E c'è anche un produttore. Hai visto? Sono appena salito l'ultimo. Avete visto quel coso frigo? Quale? Quel coso frigo? Quello come si chiama? Quel frigorifero da mare, da portare a mare, da 30 litri, enorme, grandissimo, che si apre e che fai? Due tavolino, sta un tavolino, si trasforma, un tavolino ti danno due sedie. Mi hanno dato 29 euro, costava 69 euro. Ha comprato? Quello come ruote nei col manico per trascinarlo, un bel manno, è enorme, 30 litri. A lui si vuole sponsorare. Ma no, no, non è frigorifico, no? Un frigo per metterci la roba nel mare, per portarci le bottiglie e cose del genere, non è quello a batteria. Ah, guardate. Guardate. Con la batteria già ce l'ho, ma non è un'altra cosa, dica. No, sto parlando del classico frigo, però è enorme, 30 litri è gigantesco. Funziona quella con la simbistica, sì, funziona bene. Guarda, io ce l'ho, almeno aspetta quando l'ho preso, nel 89 l'ho preso quello lì, e avevo sbagliato una vasca di là, si abbassa la temperatura interna di 6 gradi, ma non è che mi fa ghiacciare, di ghiacciare, ghiacciare non ghiaccia, cioè di mettere i ghiaccioli dentro tutti, c'è una temperatura più bassa di fuori di 6 gradi, la funziona abbastanza bene, però assorbe un po' di corrente. Vabbè, forse è una roba fresco, ma ci sta anch'io a andare a rubare, si scatina. Io a volte andavo in campeggio, alla fine non ne prendevo più di gozzi. All'inizio mi portavo il frigo, poi lavavo la macchina in campeggio, c'era l'apparecchio del ghiaccio, si prendeva una busta di ghiaccio, ogni lì andavo e pigliavo una busta di ghiaccio. C'erano i ghiaccioli, le buone di Trento, si duravano tutta la giornata e poi domani l'ho riempito. E qua, ma come ne usi la storia? Conviene, perché se stai lì, va al mare, capo, se ci va la carina, non sta a posti a casa con uno di questi lì, e va bene, ma se non, diciamo che non riesce a stare bene, ti butti dei ghiaccioli dentro, già, la tiene fresca questo giorno, Puglia, a grande. Sì, questo che ti sto dicendo è enorme, 30 litri, ci sto dicendo, è una bicca, tra le ruote pure sotto per trascinarlo, sarà, 50 centimetri di larghezza, 45 centimetri. Ah, quello che c'è tu che c'è stata la batteria. Medio grande, non è grandissimo, ne ho visto più grande, ma più grande di quelli che avevano lasciato stamattina. Io all'epoca era bello perché sta tutta la parte interna in alluminio, le bottiglie si stanno dritte, non le devi coricare, la bottiglia del 3 mezzo si sta dritta. Perché quelli che avevano lasciato stamattina la bottiglia non si sta dritta. Che ce ne fa di bello. Cappa cappa. E vabbè, andava. E via, era chi volevo di qui via. Chi fa la scorta? E la lascio. Chi fa botti di birra, fa botti di acqua, va di. E poi, vabbè, la lasciata, sono roba qua. Quella è gli affettati, si porta gli affettati. Chi si è, frutta, chi butti un terrestro e via. Gaffa, riprende i canne. Sì, c'è per un mito. No, non c'è qua, mi ascolta, vai. Mi saluto che ti ascoltiamo e che lavoravo anche oggi con Ciao, già, le prossime, ciao. Ciao, buonanotte. Anch'io che rimango in ascolto un po' e pure. Un giugno, un venti. E via. Allora, aspettiamo domani. Saluto a tutti, circolare, c'è già. Rimaniamo tutti in ascolto, l'ultimo cavo da vicino e ci ascolteremo il displaster. Ciao Luca, le frutte, dai. Mario, ci sei ancora, sono qui anche io. Mario, vabbè. Mario, siete rumito, dai, vabbè, signori, vi saluto anche io. Aspetto un attimino e poi alle prossime. Ciao a tutti, buonanotte.